24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Signori miei, cosa ci insegna Livorno? Che non esistono più rendite di posizione. Cosa ci insegna Venezia? Che ci sono posizioni che ti danno una rendita. Perché, signori miei, se Mosè aveva diviso il Mar Rosso, il Mosè è servito a dividersi un mare di nero. Vabbè, questa è la versione di Crozza Renzi su quello che sta succedendo. Oh mamma mia, leggere i giornali, ogni giorno appaiono dei nuovi nomi, per carità, non indagati, ma oggi appaiono i nomi per la vicenda del Mose, di Enrico Letta, avrebbe ottenuto un finanziamento di 150.000 euro, ex presidente del Consiglio, non ne so nulla. Flavio Tosi, sindaco di Verona, si parla credo di 15.000 euro, una roba del genere. Massimo Cacciari, l'ex sindaco di Venezia, che avrebbe chiesto 300.000 euro per la squadra di calcio del Venezia, aiutate. Un casino, ogni giorno sempre più un casino. Intanto qui alle 6.35 minuti, questo è 24 mattino, voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione come sempre e Gianmarco Ferronato che da domani ci molla, ci abbandona, è stato 3 giorni, ha detto mi fa schifo qua. No, viene spostato di turno, ma io non c'entro. Non è che lo cacciamo a calci, noi lo faremo svegliare tutti i giorni alle 3:30, è proprio una cosa a cui teniamo molto. Intanto nel pieno della 58esima settimana decisiva per la riforma elettorale può aprire il Parlamento. Forza che succedono delle cose in Parlamento e in Parlamento. Un caffè, così. Il caffè volentieri a tutti quanti. Anche perché sulle riforme avete sentito. Io adesso, Paola Saluzzi, buongiorno. Buongiorno, ma no, buongiorno. Io oggi rischio di diventare irrispettoso, perché io quando ho sentito per la 45esima volta Napolitano piangere, e dai, mo basta. No, sono troppo irrispettoso e basta, cioè. Come quelle persone molto anziane che piangono per niente, per il nulla, no? Io avevo uno zio che quando ricordava qualsiasi cosa si metteva a piangere. Ma tu pensi anche che lo faremo anche noi? Ma sicuramente allora lo faremo anche noi a una certa età. Infatti, e allora riteniamolo una cosa che faremo anche noi. Ma non faremo i presidenti della Repubblica, però, ma a quell'età. Dirlo? Ma chi, no? Ma chi può dirlo, Milan? Vabbè. Su via, chi può dirlo? Non lo so. Forza, c'è tutto diritto, e non è che sia una situazione così allegra. Ma no, per carità, c'è il diritto di piangere, c'è il diritto di fare c'è il presidente della Repubblica a 130 anni, c'è il diritto a tutto. Voglio salutare intanto Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Buongiorno direttore. Io lo faccio già, già adesso piango sempre, quindi non so se forse sono pronto per il colle. Sei pronto per diventare presidente della Repubblica? Io sì. Dimmi al colle, dimmi, questa è la notizia. Beh, certo, certo. Ma non ce l'abbiamo il presidente della Repubblica che piange, non mettiamo troppa tristezza anche noi. Alle 6.37 minuti, vogliamo un po' sorridere al giorno che inizia, no? Se dobbiamo piangere è un disastro. Allora, avete visto quanta bella presunta corruzione c'è, cara Paola? Non è che spunti anche tu nel Mose, magari tra una paratia e l'altra? Aiuto! No. Non credo, non penso proprio di no. Ma comunque, chi può dirlo della serie? Sì, c'è tanto da vedere, tanto, ai noi, talvolta veramente da piangere, e studiare, analizzare e aspettare e capire che cosa succederà. Però certo, insomma, diciamo che Il futuro non sembra roseo. No, no, no. Per quanto riguarda quel capitolo, ci sono nomi un po' ovunque. La stampa dice adesso, sì, spunta il collegamento tra il Mose e l'Expo. Mentre Galan, sapete che ha detto, caro direttore, sai che ha detto Galan? Passeranno 15 anni, ma andrò a prendere chi mi accusa uno a uno. E ha anche aggiunto: ma che 10 barche, ne ho solo due. Che considerazioni ti ha suscitato tutta questa vicenda che sta scoppiando da giorni ormai sui giornali? Allora, premettendo che è vero, bisogna vedere, nel senso che ci sono cose che insomma che vanno guardate bene, perché lo yacht può diventare una barchetta, cioè si fanno i conti in casa agli altri e non è mai semplice. Detto questo, è evidente che lì c'era un sistema per cui veniva usata questa cosa un po' come self-service per varie cose. I nomi che vengono fuori sono un po' troppi per essere tutti veri, secondo me. Detto questo, cioè qualcuno finisce secondo te anche nel trituratore della stampa? Mi pare di sì. Detto questo, forse Galan si può anche stare zitto un pochino prima, cioè aspettare un attimo di... Mi sembra che ci siano alcune cose un po' troppo grosse per essere tutte inventate o a sua insaputa, diciamo. A sua insaputa, questa non l'ho ancora sentita, su questa vicenda del Mose, cara Paola, effettivamente a sua insaputa. A sua insaputa, ormai è entrato nel vocabolario comune, sì, certo, direttore, al solito, come sempre, dice cose sagge, cioè c'è un grande macina tutto. Quello che emerge, ecco, questo sì, è l'assoluta garanzia di lentezza totale nei lavori. Non appartiene soltanto a noi, ma appartiene a tutti quei paesi dove purtroppo le cose si imbrigliano, stamattina non parlo, in una rete troppo complicata. E il fatto che lavoro, grande torta nella quale mangiare, i costi che lievitano, ripeto, noi siamo i parenti ormai della Salerno-Reggio Calabria, per chi è nato intorno agli anni 60, ci sono lavori nel nostro paese che sono entrati a far parte dei problemi familiari di tutti. Mm-hmm. Allora, ecco, questo non va più bene, nel 2014 questo non va più bene. Non va più bene, no. Ma infatti. No. Allora, tra l'altro Renzi, che in Cina ha citato Pinocchio, è il mio idolo, io non lo so, io saggio, sono cresciuto... Saggio Renzi, fa bene, perché? Tutti dovrebbero studiare. Mi ha citato Pinocchio, adesso mi diventa simpatico di colpo, perché è veramente il mio idolo, io sono cresciuto, ho ascoltato 8000 volte la favola di Pinocchio. Che ha detto su Pinocchio? Sentiamolo. In tanti racconti c'è il lieto fine, la vicenda di Pinocchio è diversa. È una vicenda che dice che se ciascuno di noi prova a mettersi in gioco e a cambiare, allora il mondo fuori cambia. Ecco perché io credo che Pinocchio ce l'ha dentro ciascuno di voi che è qui oggi. Pinocchio ce l'ha dentro ciascuno, ma che avrà voluto dire mettersi in gioco? È questa rivisitazione della favola di Pinocchio. Caro Luca Dini, tu su Pinocchio hai avuto delle idee. Cosa rappresenta per te Pinocchio? Ecco, ti faccio questa domanda alla Marzullo, forza. Pinocchio, per lei, cosa rappresenta? Per me rappresenta la possibilità che ha chiunque di redimersi, ecco, di migliorare. Oh, quindi Pinocchio dentro di noi è un segnale di speranza. Sì, sicuramente. In quel senso lì, penso che lo intenda assolutamente così, anche se dentro Pinocchio, insomma, c'è anche chi non si redime mai, ci sono. Gli asini che finiscono in fondo al mare. È vero. Ma cara Paola Saluzzi, le piace più Pinocchio o la fata turchina? Ma Pinocchio, voglio vedere a quale numero di domanda la Marzullo mi fermate. Esatto, no, ma posso dirti una cosa, Alessandro, direttore? Sì. Pinocchio è un libro che andrebbe studiato, non dico letto, andrebbe studiato da piccoli, perché purtroppo poi ci troviamo di fronte a gatto e volpe che stanno ovunque e non sono i soli, ai melampo, a tutto quello che se volete vi cito, ed è un grandissimo libro da rileggere da grandi. Ma ragazzi, quindi, ma Pinocchio è straordinario, voto 10, ma Pinocchio, nessuno mi deve toccare Pinocchio, io lo leggo ai miei figli Pinocchio, faccio vedere. Meraviglioso libro. libro. Vabbè, di una tristezza immensa, peraltro, devo dire. Meraviglioso libro. Vabbè, anche, dai, su, è anche su, un pochino. Ha un gran finale, babbo come ero buffo quando ero burattino. È vero. Comunque, meraviglia. Sulla corruzione, oggi Galli della Loggia propone una cosa sul Corriere della Sera. Io vorrei chiedere un parere. Propone questo: perché al dipendente pubblico che denuncia i casi di corruzione non diamo, come si fa in America, io non la sapevo questa cosa, un bel aumento di stipendio o una promozione? Oppure la seconda proposta è questa: se beccano un politico corrotto, date una mega multa al partito a cui appartiene, ovviamente dopo una condanna definitiva. Mi interessano entrambe le cose. La prima è la questione del dipendente pubblico. Che ne pensi, Luca Dini? Dare un premio in denaro o addirittura una promozione al dipendente pubblico che denuncia i casi di corruzione? Potrebbe essere una buona cosa oppure no? Mi piace molto più la seconda, devo dire. La prima è sicuramente un'idea buona, ma la reputo un pelo pericolosa, perché cioè, diciamo che alimentare la delazione in un paese come questo potrebbe anche significare che c'è qualcuno che... Però cioè, tu c'è sai... già qualcuno che vede la corruzione anche certo. Non c'è, quindi bisogna stare attenti. Però tu sai che in America ci sono, no? È nato proprio i whistleblowers, no? Quelli che fischiano, quelli che denunciano i casi all'interno, no? Sono proprio le... Però c'è una differenza. In America la bugia è un peccato mortale, in Italia no. E noi abbiamo Pinocchio. Esatto. Torniamo sempre. Oh, oggi Pinocchio è protagonista. Io non l'avrei mai pensato. Noi abbiamo Pinocchio. Paola, che ne pensi? Effettivamente, cioè, il dubbio è questo: cioè che in teoria uno dovrebbe denunciare la corruzione comunque, no? Un onesto, uno che fa il proprio dovere, è facile a dirsi e poi a farsi sempre un'altra cosa. Però dare un incentivo in denaro, una promozione, non so, come la vedi? Probabilmente ha fatto sicuramente, non solo avvenuto, ma acclarato, giudicato e diciamo così, chiuso nel fatto di essere avvenuto. Attenzione, intendo dire con questo che diversamente crei, a Venezia c'è, a Venezia non solo, ma c'è la buca delle lettere che veniva utilizzata per la delazione a Palazzo Ducale. Allora, hai voglia a far morire le persone sane e oneste, perché appena hai la possibilità di guadagnare un euro di più, dici quello ruba. La trasformeremo così. Ma noi umanità rischieremmo di trasformarla così. Poi ci sono diversi gradi e diversi livelli, per carità. Sposo la tesi di Luca Dini, del direttore, preferiamo la seconda. La seconda probabilmente porterebbe i partiti, se il partito deve pagare una mega multa e i soldi non li va a cercare nei soldi pubblici, ma li va a prendere dagli stipendi privati, allora lì scatterebbe una maggiore attenzione all'interno dei partiti. Ma non sono facenti tutte parti dei partiti le persone corrotte, attenzione, perché le persone corrotte, che si sono fatte corrompere o che hanno tentato di corrompere, fanno anche parte di strutture che con la politica non hanno ufficialmente niente a che fare. Però per quello ci sono anche, non so, per le imprese, non so, vengano cacciate da Confindustria, per esempio. Esatto. Dovrebbe partire una rete comune di comportamenti che parte da, appunto, la Confindustria, alle aziende che lavorano su questi grandi appalti e alla politica, senz'altro. Quindi multare la politica. È chiaro. Allora, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, che poi dopo vi voglio far sentire un Giovanardi dannata. 24 mattino. Ciao Milan, sto pensando al Mose e penso che abbiamo davvero bisogno dell'aiuto di Dio, perché se gli aggiungi un accento, quando i popoli fuggirono dall'Egitto, almeno lì il faraone non disse, trovandosi davanti questo grande evento, non vi preoccupate, fanno 33, 33 e 33. Renzi, tra il tuo derby tra l'esperanza e la fiducia, grazie delle 80 euro in più sulla busta paga, ma cosa hai previsto per chi ha perso il posto di lavoro? Caro Sandro, questa è la settimana decisiva anche per la nuova imposta comunale, che bisogna pagarla senza imprecare, perché Benedetta, il legislatore, è ispirato a Dio, che è uno e trino, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Anche la IUC, imposta unica comunale, è una e trina, IMU, pari e tali. Quindi, contribuenti, mentre la pagata è fatta in segno della croce, in pari e tasi. Ah, ah, ah, cercasi buon politico a Taranto. Ripeto, cercasi buon politico a Taranto. Eni, Ilva, Cementir, ora mille profughi. Ragazzi, io da livornese vi posso dire che non avrei mai pensato che la mia città potesse fare la cosa giusta. Invece sono fiera di essere livornese e dico, finalmente abbiamo fatto la cosa giusta. A Livorno basta col PD, basta, ci hanno rovinato. Chicchirichì! Chicchirichì! Gli italiani, svegliamoci! Ci stanno spendendo come polli i politici! Va bene, capito Paola Saluzzi, ma sei raffreddata oggi? Che c'è? C'è un terreno. Molto raffreddata, molto raffreddata da aria condizionata in macchina. Ecco, e spegnila, no? Ho capito, ma tieni un lavoro. Ma tieni un lavoro, devi apparire in TV, non è che poi. Ma la voce raffreddata è così sexy. Oh! Ma non ecco, alle 6:50 picco di ormone sulle frequenze di Radio 24, caro Lucadini. Abbiamo svegliato mezza Italia così di colpo con la voce sexy di Paola Saluzzi. Allora, sentite quest'altra bella voce sexy come rappa, sentite, eh? Ragazzo che mi ascolti, non ti far fregare, la droga non fa bene, la droga ti fa male. C'è il rapper che si chiama Fede con la Z, con le sue canzoni, si sente un po' profeta, dice che la carne si può legalizzare, la Maria ti fa bene. Non si muore col fumare. Ma Giovanardi, ma come stai conciato? Ma che mi combina? Ma che sei matto? Ma io dico, ma questo sarebbe un rap, Giovanardi, ma porca miseria, ma. Ma senti, senti. Batte un solo tiro, anche uno solo pestino. Poi c'è l'altro rapper, di nome Pacicoria, dice colpa mia per la sua brutta storia. Allora, ragazzi, fa rap in modenese, Lucadini, cioè te lo vedi a X Factor, ma porca, ma io non lo so, ma dai, cioè voto allora Lucadini dà un voto artistico al rap di Giovanardi. Uno, di solito Luca per l'impegno. Uno per l'impegno. Adesso il voto di Paola Saluzzi, ricordati Paola che non c'è più. Oh, scusate. Terribile. No, vabbè, lasciatela ridere così, lasciatela morire di risate. Nessuno l'aiuti, mi raccomando. Rimettiamogli Giovanardi perché non. Sentilo bene, valuta. La droga non fa bene, la droga ti fa male. C'è il rapper che si chiama Fede con la Z, con le sue canzoni. Oh, ma una rima almeno, Giovanardi, una rima! Una rima baciata è la regola numero uno. Ma che ne so, gliela scritta l'ufficio stampa, non lo so, ma non lo so, sua moglie. E poi uno, direttore. Uno. Uno, vabbè. Sì, oddio, scusatemi, io purtroppo posso fermarmi se piango, ma non se dico. Vabbè, comunque, allora, ma chi se ne frega di tutto? Ci sono i mondiali, io ho la copertina di Ventiferre, c'è Pirlo in copertina. Che meraviglia. Luca, chi se ne frega? Noi stiamo parlando di politica, ma gli italiani, ma secondo te gliene frega qualcosa di politica, o pensano ai mondiali, oppure stavolta guardano metà e metà, no? Proprio. No, gliene fregherà come sempre, appena inizierà, poi come sempre siamo un paese di commissari tecnici e poi sì. Se andrà male sapremo tutti perché andrà male, certo. Se andrà bene scenderemo tutti in strada. Scenderemo tutti in strada, comunque certo. Il paese si ferma, chi se ne frega della politica, la crisi, Paola ci sono i mondiali da domani. Ci sono i mondiali e Prandelli, qualcuno lo benedica perché ovviamente avrà tutti i suoi gemelli, cloni, che saprebbero ovviamente dire in quel momento che cosa fare, ma questo era il destino di tutti. Sarà un bel mondiale, perché penso che sarà un bel mondiale. C'è Pirlo in copertina, andiamo subito. Ed è, esatto, e tra l'altro è Pirlo, eh sì. E c'è anche il cuore matto degli azzurri, lui che si separa, Buffon, Balotelli che si sposa. Che si sposa. Ma che gli fa a questi ragazzi? Vabbè, ti dai, Paola, ti lasciamo e vi ringraziamo. Sentiti ancora un po' il rap di Giovanardi, e poi ci fai un riassunto. Non c'è dosaggio modico, leggere non esistono. A livello medico ci sono le tabelle. La mia legge è chiara: cannabis o ero, non c'è da farla stare. Gli effetti cerebrali, il tossicologo ci piglia, basta un solo tiro, anche uno solo pastiglia. Poi c'è l'altro rapper, di nome Pacicoria, dice colpa mia per la sua brutta storia, ma pur se era fortunato, qui in galera se va male, se stavi a Singapore era appena capitale. Io sono Giovanardi e scusa se è un po' brusco, ma faccio una spedizione. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:18 minuti in punto, cari ascoltatori, siamo pronti come di consueto a leggere i giornali in questo momento. Vi ricordo anche gli ospiti e i temi che tratteremo più avanti. Parleremo un po' di Rai, lo faremo con Roberto Perotti, professore della Bocconi e della Voce.info, proprio nel giorno in cui la Rai è in sciopero. Non si capisce a quanti aderiranno a questo sciopero, quanti no. Ha fatto un confronto con la BBC, no? Qualche termine e qualche confronto abbastanza impietoso dal punto di vista economico per la TV pubblica. Ma parleremo anche un po' di riforme, c'è un po' di fermento in Parlamento, quando è in corso, ricordiamo, la 58esima settimana decisiva per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. Tra l'altro avremo ospite anche il presidente della provincia di Chieti e vi spiegheremo perché. Ma parleremo di riforme con Corradino Mineo, tra l'altro ex direttore proprio in Rai. Quindi, come vedete, i temi si legano, facciamo uno più uno e ora andiamo a leggere i giornali. È mercoledì 11 giugno, i titoli oggi sono diversi, ogni quotidiano fa una scelta propria sulle aperture. Il Sole 24 Ore, codice degli appalti, ecco le nuove regole, questo è il titolo di prima pagina che ritroviamo anche sul Secolo XIX, appalti, le nuove regole. Il Corriere della Sera invece ha questa notizia, fisco, una norma alla settimana, in 6 anni 2 regole su 3 hanno complicato la vita ai contribuenti. Evviva la semplificazione. Repubblica, il piano di Renzi, Napolitano resti più a lungo al Colle, è un retroscena politico in prima pagina. Mentre Libero, vogliono tagliarci lo stipendio ma guadagnano 500.000, l'incoerenza di Bankitalia. Il Fatto Quotidiano, ecco la stangata, Renzi si riprende gli 80 euro, scattano le clausole di salvaguardia per 3 miliardi di buchi. Per La Stampa invece le inchieste sulla presunta corruzione, spunta il legame Expo Mose, questo è il titolo. Il Messaggero invece, statali, trasferimenti e premi, sono le anticipazioni sulla riforma della pubblica amministrazione. Per l'Unità il PD sigla il patto per l'Unità. Il Giornale invece, bunga bunga alla Boccassini, la guerra in procura a Milano. Avvenire titola invece, Iraq fuori controllo. Come vedete i temi sono davvero i più diversi quando non si impone una notizia sugli altri. Io invece voglio partire dalla lettura di un articolo che Goffredo Buccini scrive sul Corriere della Sera, è un'intera pagina dedicata alla figura di un sindaco anti-ndrangheta, si chiama Antonino Bartuccio, detto Nino, commercialista, dal 2010 eletto sindaco a Rizziconi. Dopo 367 giorni le cosche hanno costretto la giunta a dimettersi, ma lui ha deciso di denunciare e portare in carcere tutti i boss dell''Ndrangheta. L'ex sindaco antimafia di Forza Italia, cacciato dai boss, li ha fatti arrestare. Così Goffredo Buccini racconta la storia appunto di Nino Bartuccio, il quale quando racconta sente gli occhi farsi umidi e li abbassa in fretta. Gli hanno anche minacciato il figlio. Da qui non ce ne andiamo, questa è la nostra terra. Hanno pestato lui, hanno aggredito per strada il figlio tredicenne e suo padre di 70 anni. Gli hanno spedito 3 proiettili e un biglietto: bastardo, stai lontano dalla politica o finirai male. Lui si tira su, grande e grosso com'è oltre l'umana paura. Dice l''Ndrangheta che deve rimanere folgorata se tocca lo Stato. Antonino Bartuccio a un certo punto ha deciso che voleva candidarsi. Dovevo impegnarmi. Nel 2010 la nuova giunta viene eletta, viene eletto lui tra l'altro perché la lista concorrente era stata cancellata per irregolarità, ma la sua giunta non piace ai Crea, il clan che a Rizziconi fa da sempre il bello e il cattivo tempo. E allora a un certo punto convincono i consiglieri a dimettersi uno dopo uno. Sono durato 367 giorni. A marzo 2011 i picciotti costringono a dimettersi 8 consiglieri, ne manca uno, l'ultimo, decisivo per troncare la consigliatura. Si chiama Michele Russo, ha 20 anni appena, è assessore allo sport, è fedele a Bartuccio. I mafiosi però premono, il sindaco incita a resistere. E scrive il Corriere della Sera: i dialoghi registrati tra il sindaco e il suo assessore Domenico Russo, tra Domenico Russo, cioè papà del suo assessore, andrebbero trasmessi nelle scuole. Il sindaco: ma tu cosa vuoi, che vinca la mafia? Se siamo i buoni dobbiamo stare con i buoni. E il papà dell'assessore: ma io tengo famiglia. E il sindaco: tutti la teniamo, tu sei un uomo libero. E quell'altro: ma io non posso metterla in pericolo. E che, consegniamo e insegniamo ai figli nostri questa cosa? Dice il sindaco. Ma il padre dell'assessore: se devo passare male alla mia famiglia, me ne fotto di tutte le cose. E così anche il figlio assessore si dimette e il comune si scioglie. Ma che fa a quel punto il sindaco? Va in procura, consegna i dialoghi registrati con il papà dell'assessore, comincia a riempire verbali e porta agli arresti, alle manette, per il vecchio Teodoro Crea, Dio onnipotente, così è soprannominato, i suoi parenti, i picciotti, i politici collusi, 3. A questo punto Bartuccio dice: gli eroi sono un'altra cosa, io ho fatto solo il mio dovere, se tutti facessero il loro la mafia sarebbe finita, mica può ammazzare tutti. Ho sentito lo Stato vicino, dal prefetto al procuratore alla dottoressa Cerreti, cioè magistrato, la moglie non lo molla un attimo, Maria Grazia dice la mia forza, una famiglia straordinaria. Anche se hanno cercato di aggredire mio figlio l'anno scorso in terza media, sono messi in 10 per saltargli addosso. Abbiamo passato questi 3 anni in trincea. E insomma, la storia poi di tanti sindaci di frontiera, spesso si dice, no? Questa è la storia di Antonino Bartuccio, la trovate a pagina 21 del Corriere della Sera. Colui che non si è piegato all''Ndrangheta e ha fatto mandare in carcere i boss a Rizziconi. A proposito di Rai, visto che oggi c'è lo sciopero, visto che oggi ne parleremo e torneremo su questo argomento anche con Roberto Perotti, il Messaggero ha una notizia che riguarda la Rai, una notizia in esclusiva. Ne scrive a pagina 4 Mario Aiello: il governo sta pensando a una sorta di referendum, tra virgolette, referendum, una consultazione, diciamo così, popolare, per chiedere consigli su come comportarsi con la RAI. Il principio è quello, che la RAI non è di Renzi, non è del governo, non è neppure della RAI, è di tutti la RAI, come scrive Aiello. E allora, grande referendum popolare per vedere come si può rifondare la RAI. Il piano del governo, ancora da definire nei dettagli, nelle modalità di partecipazione, prevede per la RAI quello che è stato fatto per la riforma della pubblica amministrazione, ossia una pioggia di proposte online da parte dei cittadini e poi ampio dibattito fuori dalla politica, oltre gli specialismi e gli interessi corporativi, su quale tipo di servizio pubblico serve a un paese che vuole innovarsi. Allora, proposte, controproposte, ipotesi, idee, scontri, uno shock di riflessione sulla rete fuori, ma non nei soliti convegni paludati e inconcludenti, e chissà che a riformare la TV che finora è apparsa irriformabile non siano alla fine gli italiani semplici con le loro proposte. Insomma, questo studia il governo. Un referendum per coinvolgere gli italiani a dire: diteci voi, visto che la RAI è la TV pubblica, come rifondereste la RAI. Tra le aperture c'è quella di Libero, che invece è un'apertura un pochino di quelle che fa arrabbiare, verrebbe da dire, da far tenere le mani strette sul volante, cari ascoltatori, se siete alla guida, e invece la solita raccomandazione di appoggiare le tazzine del caffè bollente. Il titolo, come detto, di prima pagina di Libero è questo: vogliono tagliarci lo stipendio ma guadagnano 500.000, un focus su Banca Italia. Secondo Libero, come racconta Franco Bechis, c'è il decreto IRPEF che, come sapete, fissa il tetto a 240.000 euro per la paga dei manager e funzionari pubblici, ma il capo della BCE Draghi boccia l'estensione per Banca Italia, mette a rischio l'autonomia. Ebbene sì, scrive Libero, il governatore della Banca Italia, Ignazio Visco, gli altri membri del direttorio non dovranno tagliarsi sensibilmente lo stipendio come suggerito dal decreto legge sugli 80 euro di Matteo Renzi, a intimare lo stop a una riduzione che sarebbe stata sensibile dagli attuali 495.000 euro lordi a 240.000, è stato il presidente della BCE Mario Draghi, con il più classico degli slogan: giù le mani da Banca Italia. A dire il vero, Renzi si era venduto quel taglio in pubblico, in conferenze stampa, ma aveva usato un passo ben più felpato quando si è trattato di scrivere la norma giuridica. La Banca Italia, si legge infatti, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. Così si è spalancata l'autostrada per Draghi. Il presidente della BCE ha tranquillizzato la banca chiarendo: l'imposizione di un tetto da 240.000 euro al trattamento economico è espressamente qualificata come principio o norma di indirizzo piuttosto che come norma di cui è imposta la rigida osservanza. Ve la traduco per voi: possono seguire questa norma oppure no. Secondo Libero non succederà così. C'è anche l'editoriale di Maurizio Belpietro dedicato proprio a questo: eppure si fa fatica a giustificarli, l'euro ha dimezzato i loro compiti, la vigilanza fa acqua, vedi i casi Carige e Montepaschi Siena, e Maurizio Belpietro attacca Banca Italia con questi tetto da 240.000 euro che probabilmente potrebbe non essere rispettato. Alino Milan, il Justin Bieber dell'informazione. Uguale a Justin Bieber, soprattutto nell'età e nella freschezza e nelle occhiaie. Allora, e soprattutto nel seguito di fan e di donne. Allora, Repubblica oggi racconta in un retroscena, lungo retroscena di Claudio Tito, che è il titolo di prima pagina, la strategia di Renzi sulla vicenda Napolitano. Sapete che il Presidente della Repubblica ha detto: il mio mandato, ha ricordato per l'ennesima volta, il mio mandato è legato alle riforme, si è anche commosso anche qui per la, credo, 50ª volta nel parlare, e si è parlato delle ipotesi di un mandato a termine. Allora, ecco qua il titolo: il piano di Renzi, Napolitano resti più a lungo al Colle. Claudio Tito: resterò per un tempo non lungo. Così il 31 dicembre 2013, nel suo messaggio di fine anno agli italiani, Napolitano ripeteva ancora più chiaramente quello che aveva già specificato 6 mesi prima nel discorso di insediamento. E proprio anche ieri ha ripetuto questo, ma la strategia di Renzi, secondo Repubblica, è questa: tra l'inquilino del Colle, il presidente del Consiglio, è come se fosse scoccata una scintilla. In questi 4 anni è stata costruita un'intesa su cui pochi avrebbero scommesso, una strana alchimia tra il veterano e il più giovane rappresentante delle nostre istituzioni, che produce una singolare emulsione di sintonie e affinità. Un feeling che sta spingendo il Presidente del Consiglio a formulare un invito inatteso: restare al Quirinale ancora per un altro po'. Secondo il timing di Repubblica, Napolitano avrebbe visto nel semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea un po' il suo momento di congedo, nel senso che i sei mesi europei finiscono il 31 dicembre, poi tireremo le somme, ha sempre ripetuto ai suoi collaboratori, mentre Renzi punterebbe che rimanga, che rimanesse fino al maggio 2015. Renzi, dunque, scrive Repubblica, è intenzionato a chiedere un altro sacrificio, restare al suo posto almeno fino all'inaugurazione dell'Expo, che prenderà via proprio il primo maggio del 2015. Sono, per carità, retroscena, politici che certamente, come dico spesso, non riempiranno di conversazioni le vostre colazioni abbondanti, ma come non riempiranno le colazioni, le vostre colazioni, le discussioni di quello che è successo in Parlamento per via delle riforme. Sulle riforme, dove si accelera, oh, si accelera. È la 58esima settimana decisiva per la riforma elettorale, per l'abolizione delle province, ma si accelera. Sul Senato basta palude. Renzi dal Vietnam e dalla Cina ha dato questo comando: o si fa la riforma subito oppure si va in aula con la riforma, cioè o la si fa la riforma del Senato all'interno della Commissione Affari Costituzionali oppure Renzi, e sono sempre su Repubblica, pagina 4, retroscena, questa volta è firmato Francesco Bei, oppure Renzi porta tutto in aula dove ci sono i voti. Ieri c'è stato anche si è consumata una vicenda con tanto di accuse, rinfacci di stalinismo, accuse di fascismo, autoritarismo, e cioè il gruppo Popolari per l'Italia ha deciso di rimuovere il senatore Mario Mauro dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, perché Mauro era colui che si spendeva per l'elezione diretta dei senatori nella riforma del Senato, un qualcosa che Renzi vede come il fumo negli occhi. Allora è stato tolto dal proprio partito. Mauro non l'ha presa bene, ha accusato Pier Ferdinando Casini di essere il Dudù di Renzi. E va bene, tra l'altro tutto questo fa tornare di attualità il destino anche di Corradino Mineo, Partito Democratico, anche lui a favore della riforma che preveda la elezione dei senatori, anche lui in commissione, e anche lui si vocifera come il prossimo che potrebbe, in questo caso dal Partito Democratico, essere rimosso dalla commissione. Sarà così? Corradino Mineo sarà nostro ospite alle 8:15. Riforme, Mauro silurato dalla coppia Renzi-Casini, così titola per esempio Il Giornale con Fabrizio Boschi a pagina 8, faide interne e malumori, insomma la questione delle riforme procede così a tentoni e anche con colpi bassi in Parlamento. Come procede invece la questione dell'inchiesta sul Mose? Tra l'altro La Stampa ha questo titolo: le inchieste dell'Expo portano al Mose. Paolo Colonnello racconta che è stato aperto un terzo filone, la Mantovani come azienda ottenne commesse in Lombardia e Veneto con lo stesso sistema. Potrebbe esserci un legame dunque tra le due vicende, la vicenda dell'Expo e lo scandalo scoppiato sul Mose. Tra l'altro un Expo che, come ha detto il governatore della Lombardia, è a rischio. Questo ha generato uno scontro verbale tra Maroni della Lega e Renzi, presidente del Consiglio. Il governatore della Lombardia ha detto: basta perdere tempo, così non finiremo le opere. Ha rinnovato anche lui il fatto e ha ricordato che a Cantone non vengono dati i poteri. Dal governo si è fatto sapere che venerdì ci sarà molto probabilmente nel Consiglio dei Ministri i poteri rafforzati dati a Cantone, tanto che Andrea Orlando, ministro della giustizia, ha risposto così a Maroni: penso che Maroni debba star tranquillo, magari se si fosse agitato così prima si sarebbe evitato di dover mandare Cantone dopo. Insomma, anche la questione dell'Expo diventa un modo di rinfacciarsi dal punto di vista verbale e di acuire lo scontro politico. Certo, c'è da dire che invece dall'inchiesta del Mose escono ogni giorno nomi nuovi. La premessa che fanno anche tutti i giornali è questa: nessuno delle persone nominate è indagata, però spuntano nomi nuovi eccellenti, primo fra tutti Enrico Letta, l'ex presidente del Consiglio. 150.000 euro per Letta Junior, questo è il titolo di tutti i giornali, pagina 2 del Fatto Quotidiano dedica una pagina, il braccio destro di Gola Profonda servivano per le primarie PD del 2007. Enrico Letta, che ripeto non è indagato, dice: io cado dalle nuvole, non ne so nulla, mai visto un euro, esaminerò quel che esce dall'inchiesta, se ci sono gli estremi per difendere la mia onorabilità ovviamente lo farò, i miei finanziamenti sono sempre stati regolari e trasparenti. Così come un altro testimone dice: portai i soldi all'ex ministro Matteoli nella sua casa in Toscana, e la versione di Giovanni Mazzacurati, ex numero uno del consorzio Venezia Nuova, così come titola con Marco Imarisio il Corriere della Sera a pagina 11. Ma spunta anche Cacciari, pagina 3 del Fatto Quotidiano, Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia. Cacciari voleva i soldi per salvare la squadra, sempre verbali di Mazzacurati. L'ex sindaco ci ha chiesto 300.000 euro per il Venezia Calcio, ma soprattutto ci ha chiesto di aiutare un'azienda per un cantiere da 10 milioni di euro. L'articolo Antonio Massari e Davide Vecchia, pagina 3 del Fatto Quotidiano. E ancora spuntano i nomi, alcuni nomi, altri no. Per esempio, chi è o chi sarebbe il compagno X? Divenne famoso il compagno G, Primo Greganti, tra l'altro finito ancora nuovamente in vicende giudiziarie con lo scandalo dell'Expo. Scandalo Mose, Orsoni, cioè il sindaco di Venezia, agli arresti domiciliari, i soldi al PD. Questo è il titolo di pagina 9 del Messaggero, e spunta questo compagno X, cioè la versione del sindaco di Venezia nell'interrogatorio davanti ai magistrati è questa: ho dato i soldi al compagno X, ovviamente X sui giornali, che ha ritirato i quattrini per il partito. Io lo so che scava, prima o poi anche il nome di Mauro Meazza verrà fuori, caro Mauro. Ma vorrei capire, buongiorno Alessandro, buongiorno. Innanzitutto, ma vorrei capire come datore di questi soldi extra o come percettore, perché le posizioni sarebbero un po' sicuramente differenti. Verrà fuori tra i buoni, non tra i cattivi. Questo, ecco, ti sei salvato in corner. Perché a proposito di dazioni, cioè di soldi da dare, tu sai che oggi con il Sole 24 Ore ci sono 16 pagine su IMU e TASI. Come no? Io adesso non ti interrogo perché hai avuto poco tempo per studiare, domani ci risentiamo con calma, però scherzi a parte, abbiamo cercato di rimettere ordine, abbiamo fatto il possibile sulla vicenda sia dell'IMU sia della TASI. Il termine è lunedì prossimo, 16 giugno, quindi il tempo stringe e è il caso di ritardarci con tutte le vicende anche particolari che ci possono essere: casa data incomodato, casa affittata, casa data al familiare, eccetera eccetera. Certo. Tutto oggi con il Sole 24 Ore. Intanto guarda che venerdì comunque arriva il nuovo decreto per spostare la scadenza di Unico per chi è soggetto agli studi di settore. Sì. Quindi c'è un nuovo calendario, lo descriviamo oggi sul Sole 24 Ore. Ti rende più sereno questo? Assolutamente. Aspetto... Mica no. L'apertura dei mondiali, l'inaugurazione dei mondiali domani mi rende sereno, ma questo guarda, sì. L'inaugurazione dei mondiali rispetto a qualche milionato di contribuenti soggetti agli studi di settore, non so, diciamo che se la battono con una certa capacità anche gli studi. E guarda che cambia il codice appalti, l'avrai notato, perché gli abbiamo dato una certa enfasi. È solo il e titolo di apertura a proposito di questi soldi che girondolano tra compagni X e Y e Z, vediamo se con delle nuove regole, ma chissà, servono sempre nuove regole in Italia, spuntano nuove regole, adesso con le nuove regole vedrete. Ma adesso ci sarà una semplificazione, lo so che questa è una parola che forse hai già sentito. Sì, sulla semplificazione qualcosa oggi scrive il Corriere della Sera, tra poco lo leggerò. Ma la semplificazione è un grande mito, serve sempre una semplificazione, arriverà una semplificazione anche per il codice degli appalti, staremo a vedere. Intanto arrivano, tutto succede venerdì, quindi non so, domani c'è questa cosina dei mondiali di calcio, però venerdì invece è il giorno importante, il calendario di Unico, il codice di appalti, vediamo, anche sulla pubblica amministrazione potrebbe accadere di tutto. Intanto guarda che l'euro un pochino si è indebolito, te lo spiega bene Vito Lox oggi nelle primissime pagine del Sole 24 Ore, un pochino sta cedendo l'euro è una buona notizia. Sì, però ci sono due domande che qui circolano un po' di giorni. Ettore la manda sempre, tutti i giorni a quest'ora la domanda. Allora la giro via sms a te, caro Mauro. Ma se a Meazza hanno intitolato uno stadio, perché lavora? Guarda, perché purtroppo sono solo omonimo dello stadio. Ettore, non c'è una vicenda questa di tangenti, come si potrebbe pensare, pagamenti e neanche di nero, parentela o di eredità, eccetera. Sono solo omonimo, come peraltro parecchi qui a Milano, del grande calciatore. La seconda domanda invece ci viene da Ale da Como, ci chiede: ma perché quel debosciato di Meazza non manda il traffico visto che la A8 è bloccata? E allora lo mando subito, ci mancherebbe altro. Chiedo scusa soprattutto ad Alessandro, e mi dispiace per chi sta in coda sulla 8, purtroppo. Bene, traffico Alessandro, traffico. Alessandro Milan, al suo segnale, scatenate l'inferno. E va bene, come avete sentito, la 8 ha qualche problema. Detto questo, il buon Mauro Meazza prima citava la semplificazione. Allora oggi Sergio Rizzo, ed è l'apertura del Corriere della Sera in prima pagina, cita questa cifra impressionante. In 6 anni, 2 regole su 3 hanno complicato la vita ai contribuenti. Pagina 3 del Corriere della Sera, fisco a ostacoli, 629 norme in 6 anni. Nei 2150 giorni trascorsi dal 29 aprile 2008 al 28 marzo 2014 sono state approvate attraverso 41 provvedimenti 629 norme fiscali, 72 di semplificazione, 389 di complicazione ulteriore. Cioè, per una regola che dovrebbe rendere le procedure più facili, ne spuntano 5,4 che peggiorano l'impatto burocratico. Ma dove vogliamo andare? Con una cifra del genere, poi leggete tutti i dettagli dell'articolo a pagina 3, ma dove vogliamo andare? Al prossimo che parla di semplificazione, sbattetegli in faccia questa cifra. Come al solito le cifre, i numeri, i dati dicono le cose, poi i proclami parlano di altro. A proposito di cifre, il Fatto Quotidiano invece ha un'altra notizia in prima pagina che riguarda tutte le nostre tasche, cari italiani, e che non è una notizia, se confermata, molto molto bella. Soprattutto se trovassi il Fatto Quotidiano potrei anche dirvela. Eccola qua, ecco la stangata, Renzi si riprende gli 80 euro. Il trucco, meglio il nome, la terminologia di cui bisogna tener conto è clausola di salvaguardia. Lo spiega Marco Palombi a pagina 7 del Fatto Quotidiano. La mina da 3 miliardi nei conti, stangata su benzina e alcolici. Clausola di salvaguardia vale a dire: quando si approva una legge di spesa, se la copertura non è certa, si inserisce questa clausola. In genere c'è scritta una cosa del tipo così: dovessero mancare dei soldi, tagliamo il capitolo di spesa X o aumentiamo la tassa Y. Tra l'altro, tra le due cose, aggiungo io, indovinate un po' quale delle due soluzioni: tagliano un capitolo di spesa oppure aumentano una tassa se succede qualcosa. Ecco, ovviamente la risposta già ce l'avete. Per abolire, per esempio, la seconda rata dell'IMU, a bilancio vennero piazzati 600 milioni di condono per i furbetti delle slot machine, 925 milioni dal solito extra gettito IVA. Ovviamente il condono sulle slot non andò a buon fine, quindi aumentarono le accise su sigaretta, alcol e benzina. Ma attenzione, perché per recuperare il mancato gettito, appunto extra gettito IVA, sul pagamento dei debiti dello Stato, se non entrano quei soldi c'è già la clausola di salvaguardia, per cui il 30 settembre, senza molta fantasia, il Tesoro aumenterà sigarette, alcol e benzina, dunque nuove tasse invece che diminuzione della spesa. E dunque le clausole di salvaguardia sono lì che ci dicono: attenzione, perché c'è il rischio di aumentare nuovamente le tasse. La cronaca. Ci siamo occupati varie volte, e stavolta lo facciamo con un filo di speranza, lo faccio con un filo di speranza, della vicenda di padre Paolo Dall'Oglio, gesuita, rapito il 29 luglio del 2013 in Siria. Si era detto padre Dall'Oglio è morto, ora arrivano delle notizie si spera davvero più confortanti. Padre Dall'Oglio sarebbe vivo, anche se c'è massimo riserbo da parte della Farnesina, ma l'Achia ADN Kronos e poi alcuni giornali mediorientali come il giornale, il quotidiano libanese Al-Akhbar, ha detto che una delegazione italiana avrebbe incontrato a Raqqa padre Paolo Dall'Oglio in mano a fondamentalisti islamici. Questo è il titolo, per esempio, di Avvenire. Giallo sulla sorte del gesuita, ne parla Luca Geronico a pagina 5, ma insomma già solo il fatto che si parli di una possibile esistenza in vita di padre Paolo Dall'Oglio è davvero, insomma, l'unica cosa a cui aggrapparsi, è una buona notizia. Tra l'altro Avvenire dedica, legata a questa, la vicenda di quello che è successo in Iraq, è il titolo anche di prima pagina di Avvenire, mentre qui cadono i telecomandi, insomma lo studio lo sto facendo, lo sto disintegrando in pezzi. Comunque, Iraq fuori controllo, questo è il titolo di Avvenire di prima pagina. Gli jihadisti hanno conquistato Mosul, che è la città del nord, maxi offensiva dell'ISIS, cioè questa sigla dentro cui si nascondono Al-Qaeda in Iraq e che terrebbe anche in ostaggio lo stesso padre Paolo Dall'Oglio, e ha conquistato le città appunto del nord dell'Iraq, Mosul e Kirkuk. Dunque una situazione totalmente difficile. Vi segnalo il caso di cronaca che pone anche una domanda su cui si interroga Libero. Il caso di cronaca è questa, è il caso di ex, si chiamava Alessandro Bernaroli, che ha cambiato sesso, è diventata donna, ora si chiama Alessandra Bernaroli. È solo che il vecchio Alessandro era sposato con una Alessandra e il vecchio Alessandro, diventato Alessandra, vuole mantenere il matrimonio con la sua Alessandra. Secondo lo Stato non può, avendo cambiato sesso da uomo a donna, non potendoci essere il matrimonio tra due donne, deve divorziare. E allora Caterina Pasolini intervista Alessandra Bernaroli a pagina 21, che è diventata da uomo a donna, e dice: sfido lo Stato, non divorzio, è stata una libera scelta, si nasce stretti in un corpo che non si riconosce, amo mia moglie, mi è sempre stata vicina. La nostra battaglia non si ferma, ora deciderà la Corte Costituzionale. Libero pone appunto questo problema. Ma se il marito cambia sesso, il matrimonio è ancora valido? Una pagina di Libero a pagina 20. Ma siamo al momento conclusivo, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Che vince oggi il premio La Carta Costa è il quotidiano nazionale Il Giorno, l'edizione del Nord, con Deborah Bonetti, che dedica una pagina alla festa con 8.000 invitati per festeggiare Filippo in Inghilterra. Maxi party, 93 anni, agli ospiti serviti tè caldo, caffè freddo, piccoli sandwich al cetriolo e una scelta di petit four creati dai pasticceri reali. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Il giornale radio. Mattino. Quando sono le 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, le vicende della politica a volte sono un po' complicate da capire, da digerire, come il dibattito sulle riforme, la riforma elettorale, per carità, non ne parliamo. Sapete, io tengo la conta delle settimane decisive, siamo nel pieno della 58esima dall'inizio della legislatura. Il dibattito invece sulla riforma del Senato, il ministro Boschi dice: siamo pronti a chiudere. Gli italiani ovviamente sono un po' scettici, chissà quante volte l'avete sentita, ma dicevo, le vicende della politica sono un po' complicate. Qualcosa però è successo ieri al Senato, dove, ricordo, su questa riforma del Senato pendono 4.700 emendamenti. Ma è successo qualcosa ieri quando l'ex ministro Mario Mauro, di Popolari per l'Italia, è stato dal proprio partito sostituito all'interno della Commissione Affari Costituzionali. Mario Mauro, tanto per capire, è uno che sostiene che il Senato debba rimanere elettivo, un qualcosa che Renzi vede come il fumo negli occhi nella sua riforma. Allora Mario Mauro è stato sostituito dal suo partito e se l'è presa così. Io penso che uno come me non è che lascia la corte di Berlusconi per finire la corte di Renzi, il mestiere di Dudu non l'ho ancora imparato. Non sono il Dudu di Renzi, si riferiva a Pier Ferdinando Casini, che se lo dico in maniera fuori dai denti, non so se è d'accordo con me anche il senatore Corradino Mineo del Partito Democratico, che saluto, buongiorno senatore Mineo, eccoci. Buongiorno a voi e agli spettatori naturalmente. Si riferiva a Renzi e si riferiva a Casini, Mauro, secondo Temo lei? Temo di sì, ma non sono un esperto in affari del centro. Ah, pensavo un esperto di Dudu. No, di Dudu proprio per niente, no. Ma neanche un particolare cultore di questa area politica che un tempo si considerava decisiva. Oggi ho visto anche un pezzo di Ainis sul Corriere ieri, lo è molto meno, obiettivamente. Però Corradino Mineo torna a essere un po' al centro dell'attenzione. Oggi Repubblica scrive, e praticamente l'analisi è questa, c'è qualche ostacolo per chi non la pensa come Renzi all'interno della Commissione Affari Costituzionali sul Senato elettivo? Rimuoviamo l'ostacolo, e così è stato fatto per Mauro. Uno che non la pensa come Renzi sul Senato elettivo è lei, è Corradino Mineo. Rimuoveranno anche Corradino Mineo? Ma io non credo, nel senso che scrivevo oggi nel mio caffè, che è il blog con cui commento le aperture dei giornali la mattina, il caffè si chiama così in onore di una rivista illuminista del Milano del Settecento, che io non credo alle cose che non capisco. Ora, a me pare impossibile che si voglia far passare una riforma costituzionale al Senato militarizzando la commissione, 15 di maggioranza contro 14. Tra l'altro Renzi ha sempre detto che le riforme si fanno anche con le opposizioni, ha spiegato così, lei si ricorda sicuramente l'incontro del Nazareno, credo sì, non ci sta l'incontro ecco. Berlusconi. Ora ci sarebbe un contrordine e si andrebbe a una militarizzazione della commissione per poi portare in aula il famoso testo base della Boschi. Secondo me è una cosa che non tiene, quindi non ci credo. Ecco. Non ci credo, non ci vuole credere. Non mi sembra sensato, non mi sembra renziano, mi sembrerebbe un pasticcio. Cioè, tra l'altro, di che cosa stiamo parlando? L'accordo in commissione e in Senato su una profonda riforma, così come la vuole Renzi, fine del bicameralismo, voto della fiducia e delle leggi di bilancio soltanto alla Camera, cambio, quindi rafforzamento della forma di governo nel senso di maggiori poteri al governo, riduzione drastica dei parlamentari e dei costi, è larghissimo. Il dissenso sta solo su una impuntatura incomprensibile sì. del ministro Boschi e di una parte della, insomma, di chi gestisce la commissione e su questa formula assurda della trasformazione in senatori di presidenti di regione e sindaci. Perché secondo lei il Senato deve rimanere elettivo, cioè si può cambiare, no, si può ridurre, però vanno eletti questi senatori. Posso dire una cosa? Non facciamo un tabù neanche della vicenda dell'elettività diretta dei senatori, perché la questione è che Chiti, io, ma anche Selma, anche i dissidenti dei 5 Stelle, Tocci, Gasson, abbiamo posto, è un'altra. L'ha spiegata benissimo Rodotà. Ci sono cose, per esempio quelle che riguardano il governo, che possono essere in capo ad una Camera eletta con sistema maggioritario che vota la fiducia alla Camera dei Deputati. Ci sono cose però, le leggi costituzionali, il trattato, la dichiarazione di guerra, sì. i meccanismi che presiedono alla scelta della Corte Costituzionale, che sono beni comuni. Allora, non vogliamo avere un contrappeso, un numero ristretto di senatori eletti con la proporzionale dal popolo nelle regioni per evitare che questi beni non siano nella totale disponibilità del governo. Ci sono altri sistemi, la Camera dei Lord è a vita, no? Oppure in Francia la garanzia del presidente eletto direttamente. Il governo deve dire come nel suo progetto questi beni comuni non finiscano nella disponibilità di un governo che oggi è quello di Renzi, magari chissà domani sarà quello di Grillo. Sì. A questa domanda il governo non sta rispondendo. Non è una questione di puntatura. No, ma è chiaro. Ma con 4.700 emendamenti, perché i giornali o qualche giornale scrive siamo vicini a chiudere tutto? Non sembra. Facciamo un'ipotesi. Anche perché ieri c'è stata una stranissima dichiarazione che nessun giornale riprende, ma che è molto interessante. Di chi? Pare che Renzi abbia sfidato Grillo di nuovo a contribuire alla riforma del Senato. Cioè, se il governo fa la mossa del cavallo e per esempio si avvicina ad un'ipotesi fatta da Quagliariello dell'NCD, quindi un alleato di governo, no? E che sostanzialmente prevede un numero di senatori eletti sia pure nelle regioni, la riforma si fa domani, capisce? Se invece il governo si impunta, ma Renzi, Renzi l'ha detto, uno dei principi è che non sia elettivo, lo diceva proprio i tre punti, il primo non sia elettivo. Posso dire che lui però su questo ha fatto delle aperture precise, ha fatto delle aperture precise, ha detto non mi importa, basta che li chiamate consiglieri regionali, è un po' buffo però non mi importa, l'ha detto. Vabbè, magari sono quelle aperture che si fanno all'inizio, uno dice delle cose e poi capisce che ci sono delle resistenze. Renzi è un uomo molto intelligente, come fa a non capire che quando avesse imposto una riforma di questo tipo, non i professoroni che non piacciono alla Boschi, ma mezza Italia lo accuserà di essere autoritario, perché non è possibile, cioè non c'è in Germania, non c'è in Francia, non c'è negli Stati Uniti, non c'è in Gran Bretagna, non c'è nessun paese che eluda la questione di beni costituzionali che non sono nella... Però i consiglieri regionali vengono eletti dalle persone, quindi... ho capito, però ci sono due problemi. Prima vengono eletti per un'altra cosa, cioè per fare il sindaco o per fare il governatore. In secondo luogo sono impegnatissimi in una gestione amministrativa, come sapete hanno drammi assoluti a far quadrare i loro bilanci, arrivano a Roma con la preoccupazione di avere dal governo qualcosa per tirare avanti, e però sono loro che dichiarano, che fanno la dichiarazione di guerra e leggono il Presidente della Repubblica, che è assolutamente insostenibile. Senta, Mineo, però noi qui vorrò parlare anche un po' di Rai. Tra poco, dopo la pubblicità, ci raggiungerà anche Roberto Perotti. E tra l'altro, noi dovevamo salutarla, ma sono contento di sapere che può stare un po' con noi, perché c'è lo sciopero della Rai. Per esempio, non c'è Agorà che doveva rubarla al nostro programma. E qualche programma già è saltato. Agorà non è in onda, per esempio. Ma lei viene dalla Rai, che ne pensa di questo sciopero? Guardi, io penso che la Rai sia, che la Rai un po' tutti, soprattutto i dirigenti, abbiano una colpa grande. Avrebbero dovuto porre la questione della riforma o autoriforma con forza da tempo, riforma del modo di produrre, insomma anche capacità di ideazione, perché la Rai si è appiattita su Mediaset in un modo penoso, lo capisce ogni spettatore, e i suoi costi continuano a essere grandi, perché la riforma del modo di produrre, che si fa anche coinvolgendo, non solo tagliando, coinvolgendo i dipendenti, che vengono spesso, la cui buona volontà viene tante volte, lo so, ci sono stato 35 anni frustrati. Non avere posto questo problema pone la Rai in una condizione di estrema debolezza. Sì. Ora, naturalmente sul governo c'è un problema, perché il governo ha certamente il diritto di dire tutti fanno sacrifici, anche la Rai li faccio, 150 milioni, però il governo non può dimenticare che l'azionista unico della Rai è il tesoro, quindi nel momento in cui chiede sacrifici dovrebbe anche dire la Rai del futuro potrebbe essere così, li farà. Ma lei, certo, ma lei avrebbe scioperato o no? Ma guardi, io non ho scioperato sempre per solidarietà con i lavoratori che scioperano, però avrei detto forte e chiaro che questo modo di reagire all'intervento di Renzi è stato sbagliato e nasconde il problema vero. Anche la corresponsabilità, perché questo bisogna dirlo, i sindacati in gran parte sono stati corresponsabili, cioè ogni volta che i direttori generali della RAI non volevano, per esempio io sono stato direttore di Rai News 24, affrontare il nostro problema, che non era quello di far crescere i costi a dismisura, ma di modificare e rendere più efficiente il modello produttivo. La risposta era: ma i sindacati sono rigidi. Io sapevo che i lavoratori erano disposti a lavorare, spesso lavoravano gratis per noi, ma i sindacati sono rigidi. E insomma, finiamola con questo scaricabarile. Cioè c'è un gioco delle parti che ha paralizzato l'azienda. Questo sì, però tra poco il professor Perotti ci raggiungerà, ci saranno dei dati, ha fatto una comparazione sulla voce.info tra Rai e BBC. Prima però della pubblicità c'è questa notizia, non so se l'ha già vista sul Messaggero, c'è un piano del governo per la Rai, vogliono lanciare, lo scrive Mario Aiello, un referendum, tra virgolette, cioè una grande consultazione popolare online, un po' come è stata fatta sulla pubblica amministrazione, essendo la Rai di tutti, chiediamo agli italiani come riformereste la Rai. La metodologia intanto la convince l'idea? No, mi pare assolutamente grillina come cosa. Ah, nel senso grillina, che tu, Renzi grillino. Però non l'ho letto l'articolo, cioè se non si spiega bene quale sia il problema, le risposte sono i senatori tutta muffa. Togliate, sì, abolite il canone. I senatori, No, dobbiamo spiegare se poi la società italiana è così migliore. Quindi si immagina il referendum sarà abolire il canone, cacciare, perfetto. Pubblicare. Che facciamo? Il problema è che ma uno prenderà le proposte stupide, le metterà da parte, le proposte intelligenti. Io credo fortissimamente alla democrazia e alla partecipazione. Il modo con cui questa democrazia e questa partecipazione possono avere senso è fargli le domande giuste. Cioè, se tu veramente spieghi quali sono le colpe del sistema dei partiti in Rai, sì. No? Se tu spieghi che il conflitto di interessi ci ha bloccato la Rai ad una subalternità a Mediaset che non ha senso, no? Da tantissimi anni, poi puoi individuare le soluzioni. No, certo. Se invece soltanto la Rai è bella o brutta, si paga il canone. Ma è chiaro che non sarà così. Comunque, le anticipazioni sono queste: cioè, Palazzo Chigi vuole preparare una consultazione popolare su che fare in termini di privatizzazione, canone, spot, e poi chiedere ai cittadini sulla base del principio la Rai è di tutti, e di tutti gli italiani. Comunque, rimanga con noi, tra 3 minuti riprendiamo con lei, con il professor Roberto Perotti, che qualche dato di comparazione l'ha messo sulla voce.info tra Rai e BBC, forse la TV pubblica più famosa al mondo, e tra poco ripartiamo da qui. 24 mattino. Allora, ci siamo lasciati prima della pubblicità con il senatore Corradino Mineo del PD, ma ha 35 anni in Rai, per parlare della notizia che c'è sul Messaggero, cioè il governo sta pensando a una grande consultazione popolare, così l'ha definita il sottosegretario Giacomelli, sul tema Rai, cioè chiedere ai cittadini, sul principio per cui la RAI è di tutti, che fare sui temi del canone, della privatizzazione, della pubblicità, e si sta studiando la modalità più corretta. Il modello appreso è quello della BBC a confronto, e a questo proposito, insieme al senatore Mineo, voglio salutare il professor Roberto Perotti, che torna da noi. Buongiorno professore. Buongiorno. Lei, che insegna alla Bocconi ma è anche editorialista del Sole 24 Ore, ha fatto proprio un confronto Rai-BBC. Prima il senatore Mineo diceva certo le colpe, le responsabilità dei dirigenti della Rai. Vogliamo proprio partire da qui. Lei l'ha fatto una comparazione proprio sui dirigenti. Cosa ci può dire della comparazione tra Rai-BBC? È lo stesso che vale per il resto dell'amministrazione pubblica italiana, cioè che i dirigenti della RAI, come del resto della pubblica amministrazione italiana, guadagnano molto di più dei loro colleghi inglesi. Guadagnano molto di più. Sono anche percentualmente in numero maggiore rispetto alla BBC sul totale dei dipendenti? Sono anche percentualmente maggiore, e particolarmente fra i giornalisti il dato è molto alto. Su circa 1700 giornalisti il 20-25% hanno la qualifica di dirigenti, che credo che sia un record mondiale. Questo nella RAI, mentre invece nella BBC... No, nella BBC non c'è l'ordine dei giornalisti in Inghilterra, quindi non ci sono dati sui numeri dei giornalisti. Sono, diciamo, magari situazioni da questo punto di vista difficilmente comparabili. E soprattutto il problema è anche la questione della trasparenza. Mi sembra che in Gran Bretagna sia tutto trasparente, spesso si è detto invece per quel che riguarda i compensi con la RAI non è così. No, l'unica cosa che si sa è un'audizione, la dichiarazione del direttore generale Gubitosi in un'audizione in Senato nel dicembre dello scorso anno, in cui ha dato a grosso modo per fasce di reddito di 100.000 euro il numero dei dirigenti della RAI in ciascuna fascia di reddito. Questa è l'unica cosa che si sa, che mentre in Inghilterra si sa esattamente il compenso dei maggiori dirigenti, dei 70 maggiori dirigenti per fasce di reddito, 5.000 sterline, anche quella degli altri. Però diciamo sulla voce.info, questo studio che lei ha pubblicato titola così: RAI no, non è la BBC. In che cosa ci si discosta soprattutto dalla TV pubblica britannica? Diciamo, ci sono aspetti qualitativi e quantitativi. I qualitativi è molto difficile giudicarli, anche credo che chiunque sia d'accordo che diciamo il livello qualitativo della BBC è più alto, anche perché hanno un mercato internazionale, sono visti in 220 paesi, vendono i loro prodotti, i loro documentari e le loro news dappertutto. Però su questo ci sono anche dei riscontri, peraltro, perché ci sono delle indagini in cui si vede che l'apprezzamento della RAI da parte del pubblico è il più basso del mondo, mentre con la BBC da parte del pubblico è il più alto del mondo. Però bisogna andare oltre questi aspetti qualitativi. Dal punto di vista quantitativo le cose che saltano all'occhio sono: uno, che il costo del lavoro è, come parte del fatturato totale, è molto più alto alla RAI e alla BBC. Due, appunto, le remunerazioni, il numero dei dirigenti che vedevamo prima, di cui parlavamo prima. E tre, la trasparenza, cioè la BBC è molto più trasparente della RAI. Per tornare sulla questione delle remunerazioni, degli stipendi, lei critica anche la risposta, diciamo, che diede Fabio Fazio quando alle critiche di Brunetta Fabio Fazio rispose: vabbè, ma io faccio guadagnare la mia azienda. Lei, che è un economista, perché, cosa ci sarebbe di sbagliato nel mettere lo stipendio a dire sì, guadagno tanto, è libero mercato, ma io faccio guadagnare molto di più del mio stipendio all'azienda per cui lavoro? Beh, intanto non sappiamo, non è mai stato pubblicato il bilancio della sua trasmissione, quindi non sappiamo se sia vero o no, ma anche ammesso che sia vero, la RAI potrebbe dire l'opposto, potrebbe dire sono io che faccio guadagnare Fazio. Si tratta di un classico problema di contrattazione bilaterale, no? Insieme la RAI e Fazio fanno qualcosa che crea profitto, si tratta di capire come dividersi il profitto. Non è detto che i 2,5 milioni che guadagna Fazio, incluso Sanremo, sia da un punto di vista della società, sia quello che la società decide che è la giusta remunerazione. Ovviamente giusta remunerazione va messa tra virgolette, che cosa sia la giusta remunerazione. No, certo, è in una contrattazione tra le parti. Senatore Mineo, lo so, lei qua venga fuori un po' la sua anima RAI da difendere un pochino, no? Perché 35 anni RAI sono passati, ma... Mi dica. No, che cosa c'è delle critiche che fa professor Perotti o dei confronti con la BBC che non vanno bene? No, per carità, io aggiungerei però, visto che siamo in Italia e sappiamo studiare anche fenomeni italiani, un paio di cose. La prima è il conflitto di interessi che abbiamo fatto finta di non vedere per 20 anni e che ha portato la RAI ad una pax berlusconiana, cioè a far tutte le cose come Mediaset e in modo subalterno agli interessi di Mediaset. Faccio notare al professore che quella dichiarazione di Fazio è legata al fatto che le star, e ora anche i giornalisti non contrattualizzati col contratto a tempo indeterminato, hanno firmato dei contratti in cui non possono dire quanto prendono, quindi non trasparenza. Sono gli stessi contratti Mediaset e sono gli stessi procuratori, no? Che fanno i contratti e che prendono importanti tangenti. Un tempo il RAI non era così, si prendeva un buon giornalista interno e gli si faceva fare la trasmissione. Si sarebbe dovuto magari aumentargli lo stipendio, perché per esempio uno... Ma dice tangenti i procuratori, cioè prendono proprio... Ha usato la parola... Chi? No, ha usato la parola prendono in tangenti, percentuale. Insomma. Percentuali, capisci? Allora, questa è la prima questione. Per quanto riguarda l'altra cosa pure interessante che dice il professore, il gran numero di dirigenti giornalisti, sì, che è un'assoluta anomalia, La spiego così: c'è un contratto nazionale dei giornalisti che da tempo dovrebbe cambiare. Allora, io in 6 anni e mezzo di direzione Rai News 24 non ho potuto assumere per 15 giorni un ragazzo meritevole per 15 giorni, per paura che questi 15 giorni poi compromettessero l'assunzione. È una balla, evidentemente, però niente aria nuova, primo. Secondo, per quanto riguarda i giornalisti, se tu hai un grandissimo inviato non gli puoi dare nulla, neppure una gratifica consistente. L'inviato si stufa e cerca di diventare vice caporedattore, poi caporedattore, cioè dirigente. Sì. Il dirigente, no, è funzionale al gran numero di redazioni specialistiche, alcune inutili, francamente. Ed è, una volta che è diventato dirigente, caporedattore resta dirigente a vita. Sì. Tutto questo andrebbe riformato, però francamente, e lo dico a voi che lavorate in una emittente privata e quindi con altri stili, ma conoscete bene il contratto, discutiamo insieme. No, queste rigidità sono diventate la RAI parossistica. Questo sì, sì, ma è che è una questione di contratto, cioè non è una questione legata solo di per sé stessa alla RAI, essendo però la RAI pubblica, questo è il concetto. Ma mi pare. Esempio, qual è il problema? Che io ho una serie di capi redattori che magari sono capi redattori da anni e che non sono in grado o comunque non sono adatti a svolgere la funzione di capo redattore, io non lo posso più utilizzare perché non gli posso chiedere di fare un pezzo. In realtà non è così, perché lavorando tutto il giorno, la mattina e sera, io ottenevo tutto da tutti, ma questa era un'anomalia, non vedevo l'ora che me ne andassi. Spiegano tutti dirigenti e sindacato, perché naturalmente rompevo le uova. Allora, capiamoci, è possibile che una persona a 40 anni che diventa caporedattore da quel momento in poi deve solo organizzare altri uomini e non sbattersi sul campo? Secondo me è una follia. No, anche secondo me è assolutamente una follia. Su questo i sindacati magari qualche ruolo ce l'hanno. Io vorrei salutare intanto Enrico Di Giuseppe Antonio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Presidente della provincia di Chieti. Tra l'altro, dopo il traffico sono da lei, con lei c'è anche il senatore Corradino Mineo e il professor Roberto Perotti, perché è il presidente della provincia di Chieti, che è anche vicepresidente dell'Unione delle Province Italiane, ha fatto un appello pubblico perché vengano mantenute aperte le sedi regionali, in questo caso dell'Abruzzo, ma anche, immagino, le sedi regionali della RAI, che è un altro grande vulnus sul quale si parla molto. Allora, le 8:49 minuti, presidente Di Giuseppe Antonio, tra l'altro lei è la personificazione reale del fatto che io continuo a contare le settimane decisive per l'abolizione delle province. Ci conferma che le province esistono ancora? Presidente. Le province esistono ancora, altro spot, non le hanno abolite. No, perché quando l'ho chiesto a Renzi, quando l'ho chiesto a Renzi, ha detto: ma le abbiamo abolite, insomma, le abbiamo modificate. Insomma. Vabbè, insomma, ecco, posso continuare a contare le settimane decisive per l'abolizione delle province, quindi io posso tranquillamente, sì. Perché ci sono ancora. No, guardi, voglio precisare, perché le province vengono trasformate in enti di secondo livello. Sostanzialmente la politica è solo il voto. Aspettiamo la legge costituzionale. Aspettiamo. A questo punto sarei per la legge costituzionale. Vabbè, però in realtà l'abbiamo chiamata per questa vicenda della RAI. Tra l'altro lei è pubblicista, perché lei ha fatto questo appello per mantenere aperte le sedi regionali? Sa che per molti sono alcune sedi un qualcosa di uno spreco abbastanza notevole. Allora, io credo sia giusto mantenere le redazioni regionali, perché chiuderle è un ennesimo rigurgito di neocentralismo che investe indiscriminatamente le pubbliche amministrazioni cercando di fare cassa, e questa volta a spese del servizio pubblico dell'informazione. Io credo che le sedi RAI, o meglio le redazioni giornalistiche, sono patrimonio delle periferie della politica, delle periferie del nostro paese. Garantisce democrazia e pluralismo dell'informazione, che sono ovviamente principi insopprimibili. Ma sa che al lavoro quotidiano di recente Milena Gabanelli aveva scritto un pezzo abbastanza duro sul Corriere e aveva fatto un'inchiesta a dire: ma servono soprattutto a raccontare molto spesso, non sempre, ma tante volte, servizi sulla sagra a cui ha partecipato l'assessore, anche anche, oppure la presidente della provincia di Chieti, insomma, a rappresentare una realtà di poca informazione e molto invece a condiscendenza verso la politica. Mi credo che non sia così, perlomeno la sede abruzzese, che conosco un po' più direttamente. E, guardi, se dovessero sopprimere le sedi RAI, o meglio, io parlo di redazioni, si rischierebbe obiettivamente di tagliare fuori almeno le regioni più piccole, le periferie. Io credo che ci sia molta professionalità. Certo, nella RAI ci sono sacche di sperpero notevoli che vanno eliminate, che vanno buttate decisamente. Non si può buttare il bambino nell'acqua sporca. No, questo si sente spesso. Professor Perotti, non c'è uno studio che avete fatto sulle sedi regionali, o forse lo farete, o forse non è così interessante? Ma io credo che sì, sia l'ultima cosa che hai detto, non è così importante. Secondo me il problema RAI è molto più radicale, e i soldi che bisogna risparmiare sono molti di più di 150 milioni, detto molto crudamente. Ah sì? Quanto sarebbe una cifra secondo lei? Perché quello è un sacrificio in qualche modo che è stato chiesto, cioè dovendo fare tutti i sacrifici anche la RAI lo faccia, e il governo ha suggerito anche delle soluzioni, una è appunto sulle sedi regionali, una la vendita. Il senatore Mineo ci ha appena detto che un sacco di redattori sono lì che non fanno niente, non possono essere utilizzati perché non sanno fare il loro lavoro, mi sembra che sia una dichiarazione abbastanza esplicita. Quelli delle sacche da Mineo, che bisognerebbe fare? Cosa vuol dire? Bisogna cacciarli? No, bisogna naturalmente renderli produttivi, un nuovo modo di produzione in cui tutti si rimettono in questione e fanno qualche sacrificio. Le sedi regionali però contano un'enormità e sono, così come sono le redazioni regionali, sbagliate. Io dicevo ai miei direttori generali, se mi nominaste direttore del giornale metropolitano di cronaca di Milano o di Torino o di Roma, io accetterei, ma il telegiornale regionale in cui devo baciare la pantofola al consigliere regionale, all'assessore della regione, come se fosse ministro un po' c'è questa cosa. E in cui la notizia di Como è allo stesso piano del grande Bouchon che si crea a Milano per una rapina, della quale fatto non ebbi le immagini perché le truppe erano altrove, i gruppi. Sì. Questa cosa qui non regge, l'idea della riforma del regionale fu fatta con un'idea delle regioni negli anni 70 e poi 80 che non c'è più. Allora, da questo punto di vista si può fare una grande redazione per esempio una macro area dell'Italia centrale, si possono fare dei giornali metropolitani di Napoli, Roma, che avrebbero spettatori. È chiaro, questa potrebbe essere una soluzione. Comunque arriva adesso la grande consultazione popolare e staremo a vedere. Ringrazio Corradino Mineo, Roberto Perotti, Enrico Di Giuseppe Antonio, e ci troviamo domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.